e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, siamo pronte, siamo qua, belle sì. Come il sole, quasi guarite, sono le 10:36 e quindi direi di partire subito. Intanto voi raccontateci un po' dove, che cosa state facendo mentre ci ascoltate. È vero, scrivetecelo sui social, su WhatsApp, così non spendete nulla, dateci dei segnali, non fate come la sonda Schiaparelli che è entrata come previsto ieri nell'atmosfera di Marte, ma un minuto prima dell'atterraggio è iniziato proprio un silenzio stampa, potremmo dire, che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Speriamo di avere buone notizie, siamo molto curiose anche noi. Che dici? Io sono curiosa, ma sono anche molto fiduciosa e ottimista, come sempre. Andiamo? Andiamo con la nostra rassegna stampa. In realtà io la faccio molto veloce perché poi, Nicoletta, ti do subito la linea per le notizie di cuore di oggi. Noi per lo spazio di denari abbiamo l'approfondimento con Investire Informati, però la borsa è assolutamente ferma, aspetta la Banca Centrale Europea. Dobbiamo fare una breve errata corrige rispetto a quanto detto all'interno della puntata del 12 ottobre scorso in merito alla decisione del gruppo Samsung di interrompere la commercializzazione e la produzione di un suo prodotto. In quell'occasione abbiamo citato per errore il nome di un altro prodotto, avevamo letto erroneamente appunto alcune agenzie, io sono andata un po' di fretta quella mattina, ci scusiamo quindi con la società e precisiamo che l'unico modello smartphone Samsung relativamente al quale sono stati riscontrati problemi e già oggetto di ritiro del mercato mondiale è Galaxy Note 7. Lo smartphone è stato distribuito in Italia in sole 1950 unità che entro la fine di questa settimana saranno tutte ritirate dal mercato, quindi operazione di rettifica doverosa nei confronti di questa società. Quindi Nicoletta, ora possiamo proseguire. Crede, signor dottore, son guarito dal malore, mi riprendo dal torpore e vado via. No, caro malato, io mi sono affezionato, vado retro, vado a letto e dormo un po'. Ma cosa le ho fatto? Io sto diventando matto, nella selva dei malati non ci sto. A questa minestra preferisco la finestra, vendo anima e salute al diavolo. Allora sì, cari amici, oggi vogliamo coinvolgervi e sapere la vostra opinione su un'esperienza che molti di noi hanno avuto durante una degenza in ospedale, l'incontro con la mensa. Vogliamo saperlo perché il vassoio con la minestrina, il petto di pollo, la purea di frutta è quello che ci aspettiamo di mangiare durante un ricovero e solitamente è quello che davvero ci troviamo davanti e che siamo costretti un po' a buttare giù, un po' una mortificazione, diciamo la verità, perché mangiare deve essere ed è un piacere, ed è un piacere che fa bene soprattutto durante una cura, un ricovero ospedaliero, e quindi dovrebbe essere anche un momento in cui abbiamo questa sorta di gratificazione. Ma finalmente, e forse qualcosa sta cambiando, c'è un progetto che si propone di rivoluzionare la cucina ospedaliera, è stato presentato ieri a Roma. Si tratta di un protocollo di ricerca sperimentale e interdisciplinare tra un'università, è l'Università della Sapienza di Roma, una società che si occupa di servizi per strutture sanitarie, GioService, l'ospedale Cristo Re e... Deborah, un amico di cuore denari, uno chef pluristellato, 3 stelle Michelin, che è già in linea con noi, Nico Romito. Ciao Nico. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, ci siamo ritrovati, meno male, e in linea con noi abbiamo il professor Lorenzo Maria Donini, che è responsabile dell'unità di ricerca in scienza dell'alimentazione e nutrizione umana del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla Sapienza Università di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi di Cuore Denari abbiamo lanciato un sondaggio su Twitter chiedendo ai nostri amici un giudizio sul cibo in ospedale. Secondo lei? Cosa avranno risposto i nostri amici? Beh, il giudizio sicuramente non è un giudizio positivo, tendenzialmente non è un giudizio positivo. Infatti abbiamo un po' di... Allora, il 15% dice pessimo, poi il 34% triste e insipido, ci abbiamo però anche un 17% niente male. Voi continuate a votare e a scrivere, intanto vi aggiorneremo. D'altra parte, professore, sappiamo che in ospedale uno non è che si aspetti di mangiare bene, ma... E questo vorrei condividere con lei perché questa è un po' la base del vostro progetto. Il cibo non è solamente gusto, è, lo abbiamo ripetuto tante volte, è nutrimento. Il cibo nutre anche la nostra salute ed è anche un problema di qualità nutrizionale quello che mangiamo, perché si è considerato che a volte la persona che va entra in ospedale diventa malnutrito per eccesso, per difetto. E per questa ragione è nato il vostro progetto, che vuole un po' rivoluzionare la dieta ospedaliera, basandosi sul concetto che alla base di una buona cura ci deve essere anche una buona alimentazione. Professore. Sì, assolutamente. Lo stato di nutrizione dei nostri pazienti non è assolutamente brillante, già al momento del ricovero, e la presenza sia di malnutrizione per eccesso che di malnutrizione per difetto condiziona negativamente l'andamento del ricovero. Sì. Il progetto ha la pretesa di riuscire a migliorare lo stato di nutrizione, quindi migliorando quella che è la qualità nutrizionale delle pietanze che vengono fornite, e contemporaneamente cercare di intercettare meglio quello che è l'appetibilità del cibo. Quindi un cibo buono che fa bene, ma sottolineiamo anche il buono. La nuova cucina sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre, ma una prima sperimentazione si è già conclusa. Cosa avete notato, professore? Abbiamo avuto la conferma purtroppo che appunto lo stato di nutrizione dei pazienti ricoverati necessita anche da un punto di vista della ristorazione collettiva di un aiuto. Abbiamo notato che il giudizio non era positivo, anche se con percentuali devo dire accettabili. Sì. Abbiamo notato che c'è una certa quota di falsi miti, di false convinzioni che rendono complicato anche la gestione nutrizionale del vitto ospedaliero. E quindi serve un grande lavoro di formazione del personale medico, assistenziale e di cucina, e un grande lavoro di informazione degli utenti sul perché si fanno certe cose e sul perché queste cose andrebbero poi, tra l'altro, mantenute anche successivamente. Il servizio di ristorazione deve cercare di migliorare lo assolutamente. Stato, ma anche di avere una funzione educativa, come peraltro è previsto dai documenti del Ministero. Allora, Nico, questa è stata una bella sfida per uno chef pluristellato come te, cimentarsi in questa esperienza di ristorazione e portare, insomma, l'alta cucina in corsia. Sembra una missione impossibile, ma Nico, tu ce l'hai fatta. Perché hai accettato questa sfida e come sei riuscito a superarla? Ho accettato questa sfida perché io da diversi anni a Casadonna, a Castel di Sangro, faccio ricerca, vado in profondità su tutto ciò che è la trasformazione del cibo. Ho una scuola, un centro di formazione, è un dipartimento proprio che fa solo, dalla mattina alla sera, studia nuove applicazioni tecnologiche all'ingrediente, alla trasformazione. E quando mi hanno proposto, ci siamo incontrati, abbiamo parlato di questo progetto. Ti è sembrato vero? Hai detto io ci sono, sono pronto, sono è la pronto, cosa mia. Perché credo e sono sempre più convinto che solo dall'altissima ricerca si può andare verso il basso. Io faccio sempre l'esempio della Formula 1. È in Formula 1 che si studia il carburante nuovo, il disco, il freno nuovo, il pneumatico nuovo, per poi essere applicato alle macchine di consumo, di largo consumo. E l'alta tecnologia che faccio io nei ristoranti, il lavoro sulle cotture, sul vapore, sull'alta pressione, consente innanzitutto di standardizzare il processo di trasformazione di un ingrediente e secondo di riuscire a fare i grandi numeri. Sembra un paradosso, dice, ma come l'alta ristorazione può fare i grandi numeri? Sì, perché se io vi faccio un esempio, se io un fagiolino lo cuocio in un forno a vapore termostatato a quella temperatura, a quel tasso di pressione, io quel fagiolino riesco a rispettare la fibra, la struttura, il colore. Se quel fagiolino non ne cuocio un chilo al giorno, ma ne cuocio 50 chili, il risultato una volta applicata quella formula è sempre uguale. Vedi, una formula perfetta. Allora andiamo rapidamente a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo ancora con Nico Romito, perché a questo punto ci racconti che cosa hai preparato, almeno ci dai un'indicazione di questo menù. Prepariamoci e subito dopo insieme. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi vi stiamo raccontando di un progetto che rivoluzionerà la cucina, la mensa della, dei nostri ospedali, portando l'alta cucina in corsia. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Nico Romito, chef pluristellato che è un po' artefice di questa rivoluzione, e abbiamo anche il professor Lorenzo Maria Donini che ha sottolineato quanto e come la qualità nutrizionale di ciò che viene servito al letto del paziente può, come ben sappiamo, avere degli effetti positivi sulla sua cura. Nico, ci racconti, ci dai un assaggio, facci venire l'acquolina in bocca, che cosa hai pensato? Ma io dico una cosa importante che, di questo progetto che voglio spiegare, è che noi abbiamo rispettato la diaria giornaliera della ristorazione collettiva, quindi questo... Noi giriamo su 10 euro al giorno a persona come acquisto materia prima. E ho voluto utilizzare proprio per dare più forza a questo progetto e soprattutto la sostenibilità di questo progetto, ho utilizzato circa l'80% delle materie prime che già si utilizzavano. Da lì, quindi con questo lavoro di ricerca e applicazione tecnologica, di studio, ho voluto far capire, perché era troppo facile, dice, arriva uno chef 3 stelle e certo mi fa pagare 100 euro a testa. No, invece abbiamo utilizzato il pomodoro che utilizzano quasi tutte le ristorazioni collettive, quindi questo perché comunque c'è l'acquisto collettivo degli ingredienti. Quindi siete riusciti a conciliare, come si dice, cuore e denari, perché avete alzato l'asticella della qualità, ma non avete alzato quella dei prezzi. Quindi diamogli un'altra stella anche a noi, la stellina di cuore e denari che metterà vicino alle stelle Michelin. Dovremmo fare una classifica delle intanto un esempio di un piatto. Sì, fammi un esempio di un piatto. La domenica noi abbiamo messo, abbiamo inserito nel menù la lasagna. Rispettando oltre l'aspetto economico anche l'aspetto nutrizionale, perché la grande novità di questo progetto, poi il professor Donini sarà sicuramente più puntuale nella descrizione, è che noi abbiamo analizzato, ed è questa è stata la prima volta che succede in un progetto del genere, certo, tutti i piatti e quindi il prodotto in uscita. Cioè, di solito si analizza. Ecco, io scusami, ti volevo, Nico, ti fermo perché ho una domanda per il professor Donini e dobbiamo poi passare al secondo tema. Professore, un ascoltatore, ci sono arrivano tanti messaggi, alcuni sono assolutamente contenti della ristorazione nell'ospedale, riportando esperienze positive. Importanti non ce ne sono state. Altri invece dicono, ho mangiato così male che mi è servito come dieta di grande, quindi alla fine è andata bene, ma volevo leggere un messaggio di Bianca che ci scrive: la qualità è senza infamia e senza lode, ma il vero problema è che non tengono molto conto della patologia, per cui se sei stata ricoverata anche magari per problemi diversi, neurologici oppure renali oppure cardiovascolari, in fondo poi l'alimentazione è uguale per tutti i pazienti. È così, professore? Il vostro progetto cambierà? Cioè, ci saranno dei menu dedicati proprio magari a dei pazienti particolari? Però volevo prima fare una piccola premessa rispetto alla telefonata della signora che ha detto che la cura dimagrante sia stata positiva. In realtà non è vero, nel senso che nel momento in cui un paziente perde peso in ospedale noi non sappiamo esattamente cosa ha perso, c'è il rischio che abbia perso una massa muscolare e la cosa non va assolutamente bene, o che abbia perso una quota di grasso che non era necessario perdere. E quando abbiamo detto malnutriti abbiamo detto appunto per eccesso, per difetto, e quindi questo aspetto noi l'avevamo già commentato. Ma per quanto riguarda invece una dieta un po' calata sulle necessità del paziente, il vostro progetto risponde anche a questa esigenza? Sì, assolutamente sì, cioè nel senso che è chiaro che nel momento in cui il paziente entra in ospedale e ha delle esigenze nutrizionali particolari legate ad una patologia particolare, è chiaro che queste vanno rispettate da un punto di vista di quello che è il bilanciamento delle energie e nutrienti. Devo dire, devo dire che una parte di quelle che sono le indicazioni che noi diamo ai pazienti rispetto ad alcune patologie sono decisamente ridondanti, probabilmente potremmo trattarle in maniera molto più semplice senza creare troppi stress e troppe privazioni per tante patologie. Allora, se volete saperne di più, naturalmente chiamateci e scriveteci. Intanto saluto il professor Lorenzo Maria Donini, un abbraccio grande a Nico Romito, bravo, gli diamo anche la nostra stellina, poi la tieni, è la stellina di Cuore Denari, la punti da qualche parte e ci fai la foto e ce la mandi. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Buona giornata. Intanto i nostri ascoltatori continuano a scriverci che cosa stanno facendo mentre ci ascoltano, ma siete veramente come delle api operose. Ma esatto, c'è il neolaureato in architettura alla presa con la preparazione dell'esame di Stato, c'è invece Luigi che sta rifacendo le targhette per tutte le 8 diverse chiavi della sua seconda casa e quella della sua famiglia, c'è l'ascoltatore che ci scrive dalla Siberia, che noi salutiamo con particolare affetto, nevica tanto ma non diciamo il nome del paese perché è impronunciabile. Ma il nostro amico italianissimo, e gli mandiamo un bacio. E noi cambiamo argomento, sempre per la nostra rassegna stampa della salute, per parlare della salute delle nostre ossa. La data lo impone, la giornata dell'osteoporosi, una malattia che silenziosamente ruba il calcio dalle ossa, rendendole fragili e a rischio delle fratture. L'età è sicuramente un fattore predisponente, ma non è il solo, ce ne sono altri, ad esempio alcol, il fumo, alcuni farmaci, alcune malattie, ne parleremo tra poco, ma a me, come sapete, piace sempre partire dalle buone notizie, da quello che ciascuno di noi può fare per mantenersi attivo e sano e per tornare magari a stare bene. Quindi saluto la professoressa Maria Grano, professore ordinario di istologia ed embriologia presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bari. Buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, che mentre ci stava ascoltando è a un convegno, vero professoressa? Sì, al convegno, questo è il congresso nazionale dell'osteoporosi, ecco. e quindi in queste giornate tratteremo ampiamente di questa patologia. Professoressa, noi abbiamo, poi la riprendo dopo il GR con l'altro suo collega, abbiamo solo 2 minuti prima del GR, ma poi torneremo, perché volevo dare subito una buona notizia, un'indicazione, perché gli anni ci fanno perdere massa ossea, questo lo mettiamo in conto, è un processo inesorabile, ma noi possiamo aiutare le ossa a vivere bene più a lungo, possiamo aiutarle e facilitare quello che si dice rinnovamento osseo. Questo è un concetto molto importante, professoressa Grano, perché potrebbe convincerci a fare la nostra parte, a darci, come si dice, una mossa, ed è infatti proprio il movimento che aiuta le ossa a mantenersi forti e sane. È il risultato della ricerca che ha condotto lei insieme al suo gruppo e anche all'Università Politecnica delle Marche. Che cosa avete scoperto? Che una proteina battezzata con il nome di irisina viene prodotta dal muscolo in seguito ad esercizio fisico e attiva la formazione di nuovo osso. Così lo scheletro diventa più robusto e più resistente alle fratture. Naturalmente il tipo di attività che dobbiamo praticare aspettiamola, perché li teniamo un po' in sospeso. Noi adesso, prima del GR, vi diciamo: se vi muovete, le vostre ossa si mantengono sani e forti, anzi c'è proprio questa sorta di rinnovamento osseo. Volete sapere come e perché? Seguiteci dopo il GR con la professoressa Maria Grano, a tra poco. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Cuore e denari. Ecco, siamo tornati insieme. Come anticipato, prima di occuparci della nostra scuola di risparmio, investiamo sulla salute delle nostre ossa. Con l'avanzare dell'età diventano fragili, questo lo mettiamo in conto, ma abbiamo per fortuna anche la possibilità di contrastare, per così dire, questa condizione aiutando il nostro osso a rinnovarsi. Ne stiamo parlando con la professoressa Maria Grano, ordinario di istologia ed embriologia presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bari. Professoressa Grano, se qua ci muoviamo siamo salvi, possiamo dire così, perché i nostri muscoli muovendosi producono questa proteina che aiuta l'osso a rinnovarsi. Certo, aiuta l'osso a rinnovarsi e diventa quindi più resistente alle fratture. Certo, a lei aveva dato anche il nome di questa proteina. Questa proteina si chiama irisina. Perfetto. Irisina. Ma professoressa, quanto, come, quale sport dobbiamo fare per attivare la produzione di irisina? Allora, premetto che qualunque attività fisica praticata con regolarità e scelta anche in modo adeguato alle proprie capacità fisiche fa bene. Sì. Ad ogni modo, l'attività fisica che ha maggiore impatto sulla massa ossea è quella in cui si ha il carico sullo scheletro. E il carico può essere quello naturale, cioè quello esercitato dal peso del nostro stesso corpo, sì, oppure si può caricare ulteriormente con dei pesi. Quindi quello che si fa in palestra, Debora, più semplice, la camminata, oppure salire le scale, fare step, attività aerobica in palestra o all'aria aperta. Naturalmente la camminata deve essere sostenuta e per renderla ancora più efficace si fanno oscillare anche le braccia in maniera tale che pure i muscoli negli arti superiori e del tronco vengano professoressa sottoposti. Grano, lei non lo muscolare. Sa perché magari non bazzica tanto sulle pagine di Cuore Denari, ma la invito a farlo. Ma noi abbiamo fatto proprio la settimana scorsa un progetto con Maurizio da Milano, abbiamo parlato di chef stellati, e anche questo è un campione super stellato, dove abbiamo dato, anzi il nostro campione ha dato ai nostri ascoltatori tutte le indicazioni per una camminata salutare. Professoressa, vada a dare un occhio anche a lei, così ci mette il suo like, che vale doppio. Certamente. Quindi ci muoviamo carichiamo, usiamo un po' il peso che abbiamo delle nostre ossa per fare questa sorta di massaggio. Possiamo raccontarlo così? Sicuramente, ma non... La molecola che rinforza lo scheletro viene prodotta con qualunque attività muscolare, quindi anche gli esercizi di resistenza sono efficaci, ma questi naturalmente vanno praticati sotto controllo e certo. Per l'osteoporotico sicuramente non è indicato caricare in maniera eccessiva lo scheletro, quindi vanno fatte sotto controllo e eviterei anche le torsioni eccessive del rachide, perché quando parliamo di osteoporosi, naturalmente parliamo di un osso che ha già una certa fragilità. Quindi tutti possiamo farlo, alcune persone magari sotto un controllo di un personale qualificato che ci aiuta e ci prescrive, tra virgolette, gli esercizi da fare. Tutti possiamo farlo, e anche gli uomini compresi. Ne parliamo con il professor Marcocci, presidente della Società Italiana dell'Osteoporosi e del Metabolismo Minerale delle Malattie dello Scheletro, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora e buongiorno ai suoi ascoltatori. Professore, uomini, salvate le vostre ossa. Anche il New York Times ha lanciato un appello per ricordare e sottolineare che, a differenza di quanto si pensi, l'osteoporosi non è solo una cosa da donne. Professore. Certamente questa è un'affermazione corretta, anche se al momento diciamo la consapevolezza che l'uomo può essere oggetto di osteoporosi è ancora inadeguata e di conseguenza questa patologia è sottodiagnosticata. Un problema che può aiutarci a capire come mai negli uomini succede questo diversamente a quello che succede nelle donne è per il fatto che nella donna ha un campanello con la menopausa che è associata alla carenza estrogenica, che è uno dei importanti fattori che protegge l'osso dal suo progressivo decadimento, e quindi è allertata in quella serie di indagini che si fanno al momento della menopausa. Negli uomini invece c'è meno consapevolezza della patologia in generale, gli uomini sono meno attenti alla malattia, sono più attenti al loro benessere, alla salute, si recano raramente dal medico, e quindi una via che potrebbe essere utile, oltre a sensibilizzare gli uomini al problema che li riguarda, anche interessare le loro donne, compagne, mogli, figlie, perché avvertono i loro uomini che possono essere a rischio di questo problema, in modo da poter affrontare con il medico di famiglia eventuali indagini diagnostiche ove il medico stesso le ritenga necessarie. Vede che la palla torna sempre a noi, avete sempre bisogno di noi per occuparvi di voi, professore. Senta, ci sono però dei fattori di rischio differenti tra uomini nell'osteoporosi maschile e femminili. Quali sono i fattori e le condizioni di rischio per gli uomini? Ci vuole fare un identikit? Certamente la senescenza accomuna sia il sesso maschile che il sesso femminile, ma l'improvviso calo degli estrogeni nella donna è certamente un ruolo prioritario. Nel maschio invece la perdita della funzione gonadica è molto lenta, per cui la maggior parte delle forme di osteoporosi sono secondarie a malattie che fanno perdere massa ossea, il diabete di tipo 1 e anche quello di tipo 2, recente acquisizione, l'ipertiroidismo, malattia molto frequente, l'iperparatiroidismo, malattie reumatiche, farmaci e in particolare l'utilizzo del cortisone, un farmaco che talvolta viene usato in modo improprio, ma ci sono alcune circostanze nell'anziano bronchitico cronico empesematoso nel quale questa terapia è necessaria. Ebbene, l'uso di cortisonici è probabilmente il farmaco che è responsabile della maggiore incidenza di fratture farmaco correlate. Quindi stile di vita, malattie e farmaci. Esatto. Professore, se le ossa perdono forza e salute diventano fragili, quindi sono più esposte al rischio di frattura, un evento che può essere molto destabilizzante, che va prevenuto e poi adeguatamente curato, non solo dal punto di vista chirurgico. Professore. Esatto, questo è un aspetto molto importante. Noi abbiamo degli ospedali, dei pronto soccorsi, delle unità ortopediche molto efficaci e capaci di risolvere il problema della frattura, ma quando la frattura è causata dalla fragilità scheletrica dobbiamo anche porci il problema di qual è, oltre all'invecchiamento, una possibile causa, per cui questi pazienti dovrebbero essere valutati con indagini per dimostrare la natura osteoporotica della frattura e poi soprattutto avviati ad una terapia. Ci sono farmaci efficaci che possono ridurre del 30, 40, 50% il rischio di nuove fratture, evento a cui la pregressa frattura aumenta il rischio. Quindi ci vuole uno sforzo che deve coinvolgere in prima istanza certamente i medici che hanno contatto col paziente fratturato, e sono prevalentemente gli ortopedici. E poi diciamo un sistema di informazione del paziente che lo metta al corrente, questo vale sia per l'uomo che per la donna, che esiste un problema a monte della frattura e quindi non è sufficiente riparare la frattura, istituire un percorso che consenta di affrontare in un modo agevole all'interno dell'ospedale questa diagnostica, arrivare a una prescrizione terapeutica, e qui entra in gioco il secondo elemento fondamentale a mio avviso, che è il medico di medicina generale, che troverà poi diciamo il paziente nei suoi ambulatori e dovrà diciamo attentamente motivarlo anche al trattamento, perché ad esempio il paziente non percepisce il beneficio della terapia in termini di riduzione del rischio di frattura, diversamente da quanto avviene ad esempio nel trattamento dell'ipertensione e nei momenti in cui si inizia la cura, certo, vede i risultati, vede il risultato, è motivato, e da qui emerge l'altro problema che noi abbiamo, cioè un'aderenza alla terapia che sia quindi fatta per il tempo sufficiente per beneficiare di quegli effetti protettivi di cui parlavo. Professore, chiudiamo ricordando la campagna www.stopallefratture, dove ho visto potete anche fare un test di autodiagnosi per scoprire il vostro grado di fratture. Basta andare a compilare un po' di dati, servono l'età e anche il valore dell'ultima MOC. La MOC, quando è suggerito farla, professor Marcocci? Diciamo che le indicazioni che la nostra società dà sono... Mi dia una definizione di MOC, è quell'esame che ci permette di... Grazie. Che permette di valutare il contenuto minerale dello scheletro, che è l'unica misura che può essere agevolmente fatta per darci un'idea della fragilità scheletrica. E è indicata nelle donne al di sopra di 65 anni e negli uomini al di sopra di 70 anni, indipendentemente dalla presenza o meno di patologie, ma può essere indicata anche nei soggetti più giovani, ad esempio nella donna sotto i 60 anni, in casi di menopausa precoce, oppure anche nel maschio sotto i 70 anni, quando coesistono quelle patologie, sono un elenco ben definito anche nelle linee essenziali di assistenza che sono in corso di revisione e pubblicazione, che permetteranno l'accesso all'esame con costi sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale.

lungo periodo con tassi particolarmente bassi, e quindi indipendentemente dalle politiche monetarie, per i risparmiatori è fondamentale cercare di focalizzare meglio quello che sostanzialmente sono i loro obiettivi per capire come affrontarli. Allora, 800 24 00 24, le dico che abbiamo già un paio di ascoltatori pronti a fare una chiacchierata con noi e con lei, dottor Fontanarrava, però direi anche di fare il nostro domandone, dai, lo facciamo. Così hai i libri pronti? Io tanti e belli. Bene, anche noi abbiamo un sacco di guide del Sole 24 Ore, sono tutte quelle, i consigli pratici che vengono pubblicati in questo periodo, ne abbiamo fatto una grande incetta dall'ufficio stampa e quindi siamo pronti a regalarli ai nostri ascoltatori. Il domandone di oggi, vediamo se avete letto il giornale di stamattina, nelle pagine di finanza, proprio quelle particolari, c'è un paese che nelle ultime ore ha raccolto una cifra record con un jumbo bond, un'obbligazione gigantesca, Nicoletta, ben 17,5 miliardi di dollari. Pensa un po' tu. Insomma. Io ho già la risposta scritta nel foglietto, ma non posso dirvela, non posso neanche fare dei cenni. No, delle l'aiutino, cose. L'aiutino non è consentito a Cuore Denari, a Investire Informati, però insomma, se volete andate velocemente a curiosare sui siti finanziari, anche sul sito del Sole 24 Ore, è molto facile, si trova subito questa notizia, poi ce la dite all'800 24 00 24, e noi naturalmente pronti a spornare il nostro libro. Prima di sentire Giovanni da Firenze e Marco dalla provincia di Verbania, avevo promesso agli ascoltatori che saremmo tornati con Edoardo Fontanarrava sul rapporto risparmio pubblicato dalla Fondazione Einaudi e da Banca Intesa San Paolo appunto la scorsa estate. È un'indagine sempre molto accurata che viene rilasciata ogni anno. Ogni anno c'è un tema monografico e quest'anno l'attenzione si è concentrata, guarda caso, sulle scelte di investimento in condizioni di tassi di interesse bassi o nulle. Cosa ha rilevato questo rapporto? Che si risparmia per far fronte alle incertezze, la quota destinata alla vecchiaia è ancora bassa, quindi ancora poca forza delle famiglie italiane nel fare scelte di investimento dedicate alla previdenza, e poi con i tassi a zero i depositi liquidi polarizzano gli investimenti. Insieme, dottor Fontanarrava, al mattone. Da dove vuole cominciare? Dal mattone o dalla previdenza complementare? Ma magari partiamo dal mattone, che è anche la cosa che gli italiani amano di più, nel senso che il punto di partenza fondamentale è ricordarci che, parlando sempre di diversificazione del patrimonio degli italiani, prima di considerare il mattone come forma di investimento bisogna ricordarsi che già oggi mediamente il patrimonio degli italiani è esposto al mattone per il 57%, sì. Perché sono molti proprietari di prima casa, e conseguentemente la prima casa sicuramente non è una forma di investimento, ma in termini di lettura del rischio e quindi dell'esposizione finanziaria va considerata come un elemento di partenza. Sicuramente il mattone ha rappresentato e rappresenta ancora una forma di investimento molto importante e da considerare. Di fatto è all'interno della diversificazione uno degli elementi che devono essere considerati e valutati, però devono essere anche presi in considerazione tutti quelli che sono i rischi o comunque le implicazioni che l'investimento nel mattone hanno, a prescindere puramente dal valore e dal rendimento diretto che possono generare. Consideriamo infatti che sul tema del mattone non c'è soltanto il rischio di fiscalità, che comunque è che in questi anni è stato sempre omnipresente, e non ci può essere una garanzia assoluta che non venga modificato nel tempo, e conseguentemente anche in una logica di pianificazione va tenuto conto di questa logica di rischio. La gestione di un immobile ha molto spesso dei costi imprevisti dovuti a ristrutturazione, manutenzione e quant'altro. L'ultimo elemento che credo fondamentale più da un punto di vista finanziario è guardare al settore immobiliare e le sue caratteristiche. In Italia negli ultimi 5 anni le compravendite di immobili sono crollate del 50%, adesso c'è una ripresa, ma è oggettivamente ancora lenta. Esatto, favorita dal credito, che naturalmente è più vantaggioso, però non è sufficiente. Dall'altro lato la valorizzazione degli immobili è scesa solo del 28, tra virgolette solo del 28. Vuol dire che da un punto di vista tecnico esiste ancora un gap rispetto a quello che potrebbe essere una riduzione del valore effettivo del mattone. È quindi un asset class sicuramente importante, può essere considerata e deve essere considerata nell'ambito della diversificazione nel momento in cui i risparmi venissero tutti concentrati in questo settore. non si sarebbe molto lontani da un livello di rischio paragonabile a un investimento azionario, certo. Un diverso tipo. Allora, ribadiamo che abbiamo fatto un ragionamento legato al mattone visto come asset class per investimento. Non abbiamo parlato della prima casa, che verso la quale ci si deve muovere con tutt'altro spirito e filosofia. Allora, prima di parlare della previdenza complementare, che ha bisogno di un ragionamento articolato per capire un po' le scelte degli italiani, come si stanno muovendo in questo momento, le propongo i nostri ascoltatori che hanno delle esperienze appunto da condividere con noi. Giovanni da Firenze all'800240024, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci dica. Senta, io volevo chiedere, diciamo, è un'affermazione più che altro, poi c'è un'altra domandina. Io da maggio mi sono spostato con tutto quello che ho, i soldi che ho, in un fondo bilanciato, 10% azionario e 90% obbligazionario. Bilanciatissimo, sì. Sì, un po' sbilanciato nell'obbligazionario, esatto. Però detto questo, magari all'interno dell'obbligazionario c'è un super bilanciamento. Comunque, Giovanni, sì, andiamo. Va bene, sì. Poi io dopo a novembre poi mi sposto su un azionario al 30% ribilancio. E obbligazionario al 70%. Questo è quello che sto facendo, considerando anche la mia età, che devo essere prudente, quindi certo. Non è che posso aspettare. Giovanni, le faremo un piccolo check-up di questa situazione, adesso abbiamo il traffico, torniamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Cuore e denari. Velocemente il domandone, ma vedo che state già rispondendo in tanti. Quale paese nelle ultime ore ha raccolto una cifra record con un jumbo bond, 17 miliardi e mezzo di dollari? 800240024, se volete guadagnare un bel libricino di Cuore e Denari. Dottor Fontanarava, Banca Mediolanum. Ma allora, Giovanni da Firenze a maggio ha investito in un fondo bilanciato, che io però gli ho detto mi sembrava un pochino sbilanciato, perché il 90% obbligazionario e 30% azionario. Adesso sta facendo un ribilanciamento di questo fondo, speriamo appunto con l'aiuto e il supporto del suo consulente. Io subito, un po' maliziosa, a microfoni spenti, ho detto: ma non è un po' troppo presto per rifare manutenzione di un fondo? E lei invece mi ha detto: no, ci potrebbe stare. Perché? No, ci può stare, perché ovviamente un prodotto appunto bilanciato al 10% azionario obbligazionario è un prodotto obbligazionario, e lo scenario dei tassi obbligazionari dall'inizio dell'anno e già dall'anno scorso ha visto una costante decrescita di quelli che i valori. Questo vuol dire che i titoli all'interno del fondo che scadono vengono reinvestiti a un rendimento molto molto più basso. Quindi uno spostamento, e qui è corretta la gradualità con la quale questo avviene, verso un azionario può garantire, sempre nel corretto orizzonte temporale dell'investimento, quindi non lo posso andare a guardare tra 3 mesi, ma devo vederlo rispetto a un orizzonte sicuramente un pochino più lungo, anche se un 30% azionario siamo sempre su un orizzonte temporale mediamente accettabile, permette di sfruttare quello che è il potenziale rialzo dei mercati azionari, che sono ancora molto sottovalutati rispetto a quello che è il loro potenziale di crescita nei prossimi quindi, anni. Quindi insomma approviamo la strategia, sì, del nostro ascoltatore. Se posso, la cosa fondamentale in tutte queste operazioni è che non esiste mai un momento puntuale per spostarsi. Sì, perché allora, se lo sapessimo tutti, qua sarebbero facili le cose. Il fondo come strumento garantisce il fatto che questa gradualità di accesso e quindi di ribilanciamento sia fatta da un tecnico che quindi ha le competenze e sfrutta la gradualità e lo fa costantemente. Diversamente, nel momento in cui si tratta di un ribilanciamento fatto spostandosi da un fondo all'altro, la raccomandazione è quello di dividerlo in più momenti, in modo tale da non entrare esattamente in un momento di mercato, ma in un arco temporale adeguato, al fine di evitare eventuali giornate, esempio il giorno dopo della Brexit o altre cose, che magari hanno degli effetti su quello che è il patrimonio, che può essere più consistente rispetto al valore. Marco dalla provincia di Verbania, velocemente rispondiamo a lei, poi andiamo al capitolo della previdenza integrativa. Sì. Sì, buongiorno, complimenti alle due bravissime conduttrici. Bravo, Marco. La mia domanda riguarda le obbligazioni internazionali. sì. È il caso di entrare, sono troppo rischiose, come è il rapporto internazionali di che genere? Perché qua obbligazioni c'è... internazionali che riguardano tutto il mondo, diciamo, le diverse durate, certo. Tutto il mondo. Beh, allora qua abbiamo come dire, nell'ottica di una totale diversificazione, abbiamo situazioni dove i tassi sono molto bassi e non sono convenienti, ma altre aree del mondo dove evidentemente le occasioni ci sono, le opportunità di investimento. Sì, provo a comprendere la domanda nel dire obbligazioni internazionali, perché guardando al mondo del debito emergente, per esempio, i rendimenti sono decisamente più interessanti rispetto a quelli che si vedono nel mercato europeo, e questo sicuramente è un valore. Correttamente, sempre nella corretta diversificazione del patrimonio complessivo del cliente, quindi in una quota parte che, avendo fatto la pianificazione finanziaria correttamente inizialmente, permette al cliente di non guardarle con un aspetto di emotività, perché nell'essere sicuramente più redditizie hanno anche una caratteristica di volatilità maggiore. Rispetto all'obbligazione è sempre corretto valutare poi uno strumento obbligazionario, anche qui si può investire in obbligazioni straniere, quindi sui mercati emergenti, attraverso uno strumento come un fondo che garantisce nel contempo anche un'ampia diversificazione, certo. E riduce quindi il livello. Senta, lo strumento del PAC, del piano di accumulo sul mercato obbligazionario, ha lo stesso senso del PAC che si può utilizzare per esporsi gradualmente sul mercato azionario? Allora, il PAC inteso come metodologia di ingresso sui mercati ha senso anche nel mercato obbligazionario, sicuramente in misura inferiore, anche se il PAC in realtà ha un valore importantissimo su quello di cui parleremo, che è il tema della previdenza e la costruzione di un capitale. Introduca lei il capitolo allora, così andiamo via velocemente. Dicevamo prima che anche dalla ricerca pubblicata, sì, ad agosto è emerso come sostanzialmente i clienti siano molto poco sensibili al tema del risparmio. Questa scarsa sensibilità deriva da tante situazioni, in particolare negli ultimi anni la situazione di crisi ha cambiato le priorità quelli che sono i clienti. Conseguentemente, nel momento pieno di crisi e nel momento in cui bisognava incominciare a mettere le mani al portafoglio, è molto difficile ragionare su un tema previdenziale. Lo scenario però di tassi di cui abbiamo parlato fino a oggi apre un'opportunità, appunto torno al concetto di dire mettere sul tavolo i propri risparmi e comprendere la reale esigenza di mantenerli liquidi e riconsiderare in modo importante quello che è il tema della previdenza complementare, innanzitutto perché la previdenza complementare è una cosa non è importante, è fondamentale, va approcciata il prima possibile. Quindi anche poco, ma il tempo, certo, è un fattore di vantaggio enorme rispetto alla quantità che si riesce ad accantonare. Questo è un concetto che pure si fa fatica a far passare, ma ci proviamo. Assolutamente. E vorrei provare a dare una lettura del tema previdenziale come non un prodotto, ma un viaggio, un percorso che va fatto. La previdenza non è un prodotto, non è un qualcosa che scelgo oggi e mantengo per 30 anni e vedo che cosa succede, ma incomincio oggi con quello che posso, indipendentemente dal fatto che sia sufficiente o adeguato, e nel corso del viaggio vado a aumentarlo, modificarlo e riposizionarlo rispetto a quelle che sono le mie esigenze e anche rispetto a quello che succede sui mercati. È proprio sbagliato considerare il fatto di ritenere di dire ho sottoscritto il fondo X o la polizza Y e quindi sono a posto, ma è necessario riconsiderarla alla luce di vari fattori. Quello che è il mio percorso professionale, io posso iniziare con determinata capacità economica e aumentarla o diminuirla e conseguentemente modificare quello che è il piano. Posso anche considerare che rispetto alle mie esigenze pensionistiche mi dovessero arrivare benefici diversi da quelli che possono essere semplicemente quelli che metto sul tavolo e quindi cambiarne la priorità. E in ultimo non dobbiamo dimenticarci che la previdenza complementare offre un vantaggio enorme che nessun altro prodotto sul mercato offre, che è la fiscalità, è il vantaggio fiscale. Quindi in uno scenario di tassi così bassi, la dimensione di quel vantaggio fiscale fa del prodotto previdenziale tecnicamente il miglior prodotto in senso assoluto. Viaggia con Investire Informati da oggi abbiamo creato. Nicoletta, che cosa ne dici? Mi piace questa metafora del viaggio, esatto, è molto calzante, l'abbiamo utilizzata anche in altri ambiti, anche nella salute, nella prevenzione. Il viaggio funziona anche perché tutti noi abbiamo fatto un viaggio, lo facciamo quotidianamente magari per recarci al lavoro e per venire poi ad ascoltare il Cuore Denari come infatti i nostri esperti, e quindi mi piace. 10 lode. Allora, stiamo andando verso la conclusione della trasmissione, abbiamo lasciato fuori due capitoli importanti, che meritano un approfondimento a sé stante, e allora lo faremo in altre puntate, dottor Fontanarava, il tema di chi ci accompagna in questo viaggio, una puntata solo sulla consulenza e un'altra sull'altro grande tema che rende un po' nervosi molte persone, la precarietà un po' del sistema bancario italiano, che naturalmente preoccupa tutti. Però abbiamo anche Paolo da Padova che risponde al domandone velocemente. Paolo? Sì, pronto? Il Jumbo Bond, chi l'hai messo? Quindi l'Arabia Saudita. Bravo, ha vinto il premio, i libri di Cuore e Denari, grazie mille. Poi naturalmente la partecipazione gratuita a Cuore e Denari tutti i giorni. Dottor Fontanarava, grazie molte per essere stato con noi. Alla prossima puntata con Investire Informati. Noi torniamo domani. Lui non sappiamo quando torna, ma noi domani siamo qua. Alle 10:30. Buona giornata. Buona giornata.